Ti prego, c'è qualcuno, qualcuno che risponda. Io così lontano, anni luce dalla terra. La luna è così bella, dovresti vederla. I tuoi occhi sono chiusi, sembri in dormiveglia. Un po' ti ho odiato, un po' ti ho amato, perché io povero illuso ho sempre creduto che l'universo intero da te in fondo fu creato, e che non esiste il fato, e che per respirare a me serva il tuo respiro. Se potessi, giuro, io ti darei il mio mondo e tutte le parole che la vita ti ha tolto. Il sole tra i capelli quando è già mezzogiorno, un viaggio solo andata senza avere ritorno. Ed ho sentito un brivido, un vuoto nello stomaco. Per la prima volta io mi sono sentito piccolo, come pollicino, come quando da bambino tu mi davi un bacio ed era di nuovo mattino. Sono figlio dell'uomo Magritte, questa vita è una danza Matisse, e balliamo nell'ombra del tempo fin quando memoria persiste da lì. Questo cielo mi sembra cristallo, l'esistenza come fosse un ballo, e sai bene che mentre ti guardo ogni ricordo mi sembra più eterno. Se io diventassi grande nel bel mezzo della grandine, navigherei oltre le colonne d'Ercole. Ti giuro, non è facile abituarsi al vuoto dopo aver scoperto Atlantide. Se potessi, giuro, io ti darei il mio mondo e tutte le parole che la vita ti ha tolto. Il sole tra i capelli quando è già mezzogiorno, un viaggio solo andata senza avere ritorno. Ed ho sentito un brivido, un vuoto nello stomaco. Per la prima volta io mi sono sentito piccolo, come pollicino, come quando da bambino tu mi davi un bacio ed era di nuovo mattino. Ed ho sentito un brivido, un vuoto nello stomaco. Per la prima volta io mi sono sentito piccolo, quasi come un albatro che cerca l'assoluto, volando sopra il vuoto nel bel mezzo del diluvio.